24 mattino. L'Italia si desta. Ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. E con la carezza di Lucio Dalla, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati da Gianfranco Fabi per questo 24 mattina anche oggi. Buongiorno a Maurizio Tortorella. Buongiorno, buongiorno. Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e anche buongiorno a Lino Terlizzi. Buongiorno. Lino Terlizzi, vice direttore del Corriere del Ticino, il più importante quotidiano della Svizzera italiana. Abbiamo cominciato con Lucio Dalla, oggi rendiamo omaggio a questo grande italiano, è morto poco più di un anno fa, il primo marzo dell'anno scorso. Ci sono rimaste per fortuna le sue canzoni, si è rimasto il suo modo disincantato ma appassionato di guardare la realtà, il suo modo molto, molto intenso di partecipare alla vita di tutti i giorni, di tutti noi, e di farci capire, insomma, che forse in Piazza Grande si può trovare uno spicchio di umanità molto più importante, molto più significativo che non quella dei palazzi. Si parla molto dei palazzi, del palazzo, si parla molto di cosa avviene nei palazzi. Ieri c'è stato questo incontro importante, il primo incontro ufficiale tra Bersani e Berlusconi. Si è votato più quasi due mesi fa, e i due protagonisti del voto, dopo quasi due mesi, si trovano per capire qualcosa e per portare avanti qualche iniziativa. Non si sa bene quale, per ora si parla ovviamente soprattutto del Quirinale. Maurizio Tortorella, forse stiamo aspettando un po' troppo. Sì, sono passati per l'esattezza 40 giorni e non si capisce perché si è dovuto aspettare per l'appunto 40 giorni per una cosa che era evidente come necessità, come obbligo, come passaggio fondamentale fin da subito. È stata un po' l'ostinazione di Bersani, che appunto inutilmente ha cercato un accordo con il Movimento 5 Stelle per troppo tempo, incapace evidentemente di capire che da quella parte non poteva venire nulla se non un no, e tra l'altro anche l'occupazione, sia pure sì, simbolica. Simbolica, ma comunque irrituale. No, beh, però secondo me è giustificata, perché anche il Parlamento doveva muoversi, dovrebbe muoversi, le commissioni, alcune commissioni possono essere costituite anche senza governo. Bisogna cambiare, c'è stata una prassi fino a poco fa, una prassi bipolare che prevedeva certe consuetudini che non sono previste dalla Costituzione, ma il Parlamento può funzionare, certamente non a pieno regime, non come dovrebbe funzionare normalmente con un governo costituito, ma può funzionare lo stesso anche se il governo è in ordinaria amministrazione. Un governo c'è sempre, tra l'altro il Fatto Quotidiano oggi ricorda che c'erano 177 furbetti seduti su due o tre poltrone, cioè la mancanza della giunta delle elezioni fa sì che ci siano delle incompatibilità evidenti, ma ci sono dei deputati e senatori che continuano a fare anche il consigliere regionale, il consigliere comunale, il consigliere provinciale, prendono due stipendi, tra questi nomi importanti, per esempio quello di Nichi Vendola. È un po' scandaloso, Maurizio. Assolutamente, anche Cotta, se non sbaglio, è esattamente la stessa situazione. Ci sono quindi anche presidenti di regione da tutte e due le parti. Non ho nulla in contrario alla critica, anzi condivido pienamente la critica al fatto che il Parlamento funzionare anche da senza. E ha un cellulare un po' che prende e non prende. Scusami, senti adesso. Vediamo se quelli svizzeri funzionano meglio. Lino Terlizzi, come ci vedete voi da oltre frontiera? Come si vede l'Italia, questa Italia così complicata? Beh, certamente è chiaro che in situazioni del genere torna un po' in auge il vecchio adagio dei vicini lontani, insomma, così vicini dal punto di vista geografico e in parte anche linguistico, culturale. Vicini anche poi da un punto di vista economico e commerciale, perché poi bisogna sempre ricordare che gli scambi commerciali, rapporti economici, non solo finanziari, anche da un punto di vista industriale, tra Italia e Svizzera restano sempre molto robusti, nonostante tutto, certo. E nonostante le incomprensioni che talvolta invece appunto ci sono a livello politico, a livello anche di negoziati politici e magari anche fiscali, però vicini lontani, perché chiaramente una situazione del genere dal punto di vista istituzionale è abbastanza impensabile. Ecco, ma c'è più il fatto che vi siete stancati di guardare questa Italia così complicata, oppure pensate che sia inutile, lasciamo che l'Italia decida con questi suoi rituali, poi a un certo punto riprenderemo a parlare. Oggi la prima pagina del Corriere del Ticino ha un titolo principale: Lugano non alza le imposte, beati voi. E poi si parla del governo, della Lega ovviamente ticinese, non c'è neanche un piccolo titolo sull'Italia, quindi non vi interessa proprio quello che succede a Roma. No, per la verità ci sono poi anche i titoli sull'Italia, ne abbiamo avuti nei giorni scorsi e ne avremo anche nei giorni prossimi. Chiaramente però diventa obiettivamente difficile seguire il day by day, giorno dopo giorno, sempre tenendo alto il tiro, perché francamente appunto c'è un tale tasso di instabilità e un tale tasso di stallo politico, come si dice, che diventa veramente complicato seguirlo giorno dopo giorno. Si cerca ovviamente di andare all'essenziale, naturalmente poi alla fine, anche se qualcuno in Svizzera, insomma, per antiche questioni magari può essere così soddisfatto quasi, no? Schadenfreude si dice in tedesco, cioè soddisfazione dei malanni altrui, però poi alla fine anche in Svizzera e anche in Ticino in particolare si vede che alla lunga poi non fa bene a nessuno questo stallo, non fa bene neppure ai rapporti tra l'Italia e la Svizzera. Ecco, forse c'è anche poi una difficoltà di linguaggio, per esempio crisi politica, cosa vuol dire in svizzerese? Esiste la crisi politica in Svizzera? Ma sì, lo si dice talvolta, però in realtà non è che c'è molto, perché poi il discorso dell'amministrare comunque, del governare comunque, è un discorso molto presente. Bisogna ricordare, forse non tutti in Italia poi sono addentro rispetto a queste questioni politico-istituzionali svizzere, che al di là del federalismo, che resta una chiave molto importante ovviamente per la Svizzera, però nella Confederazione Elvetica poi c'è un sistema per cui c'è una tale coesione, per cui si governa sempre, si governa anche, non si lasciano situazioni di stallo tipo quelle che appunto ci sono in Italia, ma che ci sono state anche in altri paesi, perché ricordiamo, restando in Europa, per esempio, seppur in termini diversi, però c'è delle analogie, ricordiamo il Belgio per esempio. In Svizzera si governa, e si governa sia a livello cantonale, sia a livello comunale, sia ovviamente a livello nazionale, con dei sistemi cosiddetti di concordia, per cui sono presenti tutti i partiti maggiori, di destra, di centro e di sinistra, e quindi questo meccanismo per cui non ci si riesca a mettere d'accordo, francamente lo si avverte lontano. Eh sì, è un meccanismo certamente complesso, fa parte della democrazia, però in Italia forse riusciamo a complicare le cose già complicate, perché appunto tutti questi paletti, questo non prendere atto della realtà. In Svizzera in fondo quando sono nati nuovi partiti, per esempio la Lega in Ticino, l'Unione di Centro, che si è sviluppata molto, sono entrati nel governo cantonale o nazionale senza troppi problemi, cioè con qualche problema ma senza troppe polemiche. Sì, ecco, diciamo i tempi magari nel caso del governo nazionale non sono brevi, la famosa formula magica, no, di cui si parla, si è sempre parlato in Svizzera, cambia ogni tanto. La formula magica, ricordiamolo, vuol dire l'assetto di governo con i vari partiti. Allora, quanti a livello nazionale in Svizzera? Ci sono solo 7 ministri che compongono il Consiglio federale, cioè il governo nazionale. Ecco, questi 7 ministri di quali partiti fanno parte, quanti ce ne sono? 2 dell'uno, 1 dell'altro partito. Ecco, questa formula magica che associa tutti i partiti principali, poi ogni tanto cambia effettivamente, allora ci sono 2 ministri di un certo partito anziché di un altro, però ecco, sono cambiamenti che magari non vengono fatti subito, però vengono fatti. E c'è un omino piccolo così che torna sempre tardi dal lavorare, e ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare, e più ci pensa più non sa aspettare. Attenti al lupo, dirà Lucio Dalla tra poco in questa canzone, un lupo appunto che si aggira ancora all'interno della politica italiana magari. Maurizio Tortorella, chi è il lupo? Il lupo, se lo chiedi a me, è Beppe Grillo, è quello che aspetta che gli altri gli lasciano cadere in bocca l'agnello della Repubblica. Io spero che questo non avvenga, ovviamente, ma l'impressione è che la peli possa soltanto aiutarlo, anche se ho visto dei numerosi sondaggi che danno in calo il Movimento 5 Stelle. Ma la politica si fa con i sondaggi, ma poi dopo le elezioni sono quelle che contano. C'è un'ipotesi che fanno alcuni giornali, mi sembra il Corriere della Sera, che Grillo sarebbe pronto, cioè, a far votare i suoi Romano Prodi per mettere in difficoltà il PD, che non potrebbe dire di no, però questo provocherebbe appunto sicuramente una frattura tra PD e PDL, perché dalla destra Prodi è visto come un nemico, e quindi da una parte farebbe un piacere alla sinistra, ma impedirebbe, l'unica cosa in fondo possibile, un accordo di governo tra PD, quindi complicherebbe molto le cose. È questa la realtà possibile, Maurizio? Ma tutto è possibile, per carità. Ieri l'incontro l'unica cosa veramente positiva uscita dall'incontro è che tutte e due le delegazioni, cioè da una parte Bersani e Letta e dall'altra Berlusconi e Alfano, sono uscite dall'incontro dicendo che concordano l'idea di un presidente condiviso. Prodi, credo che con punto condiviso, come hai detto tu, assolutamente non sarebbe, perché in viso al centrodestra, e quindi è un'ipotesi che al momento è lontana dalla realtà. Poi sai come ve lo dici, certo, anche tu, ovviamente la politica è tutta altra cosa. Ma che cosa ha detto Bersani? Sentiamolo nell'interpretazione che ha dato ieri sera Maurizio Crozza. Siamo visti io Berlusconi, ne esco adesso, ragazzi, perché dovevate vedermi? Gli ho sparato una raffica di metafore che gli si è scolato il parrucchino, ragazzi, sta qua, c'avevo mica paura di sentire cosa diceva Berlusconi, c'avevo più paura di sentire cosa dicevo io. Questo è Maurizio Crozza, sempre efficace. Certamente se l'incontro fosse stato trasmesso in streaming sarebbe stato forse una parte di un ballarò, di uno spettacolo televisivo, una politica un po' spettacolo. Lino Terlizzi, una politica spettacolo che dalle parti svizzere forse non è molto usuale. Beh, no, non diciamo con questi tassi di intensità sicuramente, ecco, qualche elemento di spettacolo ogni tanto può comparire anche in Svizzera, ma certamente molto meno, ecco, qui. Certamente Giuliano Bignasca, lo ricordiamo, è morto un mese fa, è un grande protagonista, il creatore della Lega dei Ticinesi, era in fondo un uomo di spettacolo. Beh sì, diciamo che ha importato nella Svizzera di lingua italiana, perché poi diciamo, per quanto riguarda il cosiddetto oltre Gottardo, cioè la Svizzera di lingua tedesca, la Svizzera di lingua francese, diciamo non ha attecchito da quel punto di vista, però nella Svizzera di lingua italiana certamente ha importato alcuni elementi che poi sono presenti sulla scena politica italiana, e nel caso di Bignasca della Lega soprattutto nord italiana. Ecco, a proposito di rapporti tra Svizzera e Italia, ovviamente adesso è tutto congelato per la mancanza di un governo, ma a che punto sta? Si è parlato anche durante le elezioni, peraltro Berlusconi aveva detto che in parte l'IMU sarà pagata attraverso la restituzione dell'IMU potrà essere pagata attraverso questo accordo tra Italia e Svizzera per mettere appunto definitivamente in regola i depositi degli italiani in Svizzera. Come stanno andando gli accordi a questo punto solo tecnici tra i due paesi? Ma per quel che riguarda questo versante, per quel che io so, in realtà il versante è sempre aperto, nel senso che i contatti ci sono stati reinnescati appunto con l'inizio del governo Monti, grosso modo, perché nella fase precedente invece praticamente la situazione dei negoziati era bloccata, però ecco adesso anche lì, per quel che mi risulta, si sente lo stallo, nel senso che appunto il canale è aperto, però non si procede, nel senso che mancano i momenti e mancano le possibilità per andare avanti in questi negoziati. Ecco, quindi si sta andando avanti, vedremo appunto il nuovo governo, si vota a Lugano mi sembra domenica. Sì, c'è il voto per il sindaco e per la giunta municipale e per il consiglio comunale. Ci sono alcune elezioni comunali che sono abbastanza seguite in Canton Ticino, quella di Lugano naturalmente è la principale, perché Lugano è la principale città dal punto di vista economico, la capitale politica invece è Bellinzona, e bisogna anche ricordare che Lugano poi attraverso un processo di aggregazione di comuni si è molto ampliata negli anni scorsi, per cui è cresciuta dal punto di vista delle dimensioni, è cresciuta dal punto di vista della popolazione. E poi c'è il sindaco che Giorgio Giudici, sindaco liberale, che è sindaco da molto tempo e che però si ripresenta, e il suo avversario sostanzialmente è un esponente della Lega, Marco Boradori, che è stato a lungo nel governo cantonale, quindi diciamo che questa volta il confronto politico, il confronto elettorale per quel che riguarda la città di Lugano è abbastanza intenso. E la tua previsione? No, è veramente molto difficile perché è un testa a testa, onestamente è un testa a testa, e quindi i sondaggi, quello che posso dire è che i sondaggi dicono che c'è un lieve vantaggio di Boradori su Giudici, questi sondaggi dei giorni scorsi, ma francamente penso che si giocherà un po' all'ultimo voto questa volta. Grazie Lino Terlizzi, vedremo appunto cosa succederà anche a Lugano, anche qui la Lega è in pole position per prendere un posto di sindaco appunto in una città importante, la città più importante del Canton Ticino, e con Maurizio Tortorella vorrei concludere un po' questo nostro incontro con il caffè mattutino. Facciamo una previsione su invece chi vincerà per il Quirinale. Il Corriere della Sera fa spuntare il nome di De Rita. De Rita, sì, beh, se era stato fatto anche nei giorni scorsi. Io credo che alla fine i nomi che girano sono noti: Emma Bonino, apprezzata a centrodestra e a centrosinistra. Un po' meno dal mondo cattolico, probabilmente. Indubbiamente meno dal mondo cattolico. Per questo è probabile che alla fine un nome che possa accontentare tutti sia quello di Franco Marini, è stato presidente del Senato, un ex sindacalista e segretario generale della CISL, uomo moderato, che ha una visione pacata del ruolo del Presidente della Repubblica. Credo che quello potrebbe accontentare tutti. Beh, però è un esponente della vecchia politica. È la vecchia politica, indubbiamente, però è un uomo delle istituzioni, un uomo equilibrato. E una donna? A parte Emma Bonino, si fanno i nomi dell'attuale ministro dell'interno Cancellieri, che è donna, appunto, anche lei delle istituzioni, ma un altro nome è assolutamente possibile. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Ancora buongiorno da Gianfranco Fabri per questo 24 mattino, questo spazio dedicato alla lettura dei giornali di oggi che sono ovviamente in gran parte, nelle aperture almeno delle prime pagine, dedicate a questo incontro tra Bersani e Berlusconi con interpretazioni diverse. La Stampa parla PD-PDL, incontro senza intesa, l'Unità dice larghe intese, punto, per il Colle, il Corriere della Sera una rosa di nomi per il Colle, di rosa di nomi parla anche La Repubblica, Bersani, Berlusconi, rosa per il Colle, il nome della rosa o la rosa di nomi? Ecco, se fosse veramente il nome della rosa ci sarebbe forse da essere un po' preoccupati, ricordando come finiva il romanzo di Umberto Eco con un grande incendio che distruggeva tutto. Ci sono altri giornali che non dedicano appunto l'apertura a questo fatto di ieri, l'incontro Bersani-Berlusconi. Il Manifesto, scuola Thatcher, prende spunto appunto dalla morte ieri dell'ex primo ministro inglese, e dice che Thatcher ha fatto scuola nonostante tutto anche da noi. Sorpresa, anche senza Blair e la Lady di Ferro l'Italia ha meno dipendenti pubblici della Gran Bretagna. I dati dell'agenzia pubblica ARAN dimostrano il massacro dei servizi di welfare, istruzione e sanità. Questo è il Manifesto. Il Fatto Quotidiano, Parlamento, 177 furbetti seduti su una o due o tre poltrone, cioè scusate, seduti su due o tre poltrone, quindi che cumulano pur con l'incompatibilità, il seggio parlamentare con altri seggi nelle amministrazioni locali. Avvenire dedica il titolo principale, l'Ilva svolta e non chiude. C'è stata ieri la sentenza della Corte Costituzionale che ha dato ragione, cioè che ha respinto in pratica il diktat della magistratura che aveva sequestrato i materiali provenienti dall'azienda, che l'azienda aveva prodotto, e quindi che ridà via libera all'operatività dell'impresa. Alle difficoltà delle imprese, dedicato il titolo principale del Sole 24 Ore, da inizio anno chiuse 4.218 imprese, e il Sole 24 Ore inizia un indicatore, il contatore della crisi, i nuovi fallimenti archiviati, e dice ieri ce ne sono stati 58 e da inizio d'anno sono 4.218 imprese che per la crisi economica hanno chiuso i battenti e ovviamente hanno anche licenziato il personale. Altre notizie sulle prime pagine di oggi, anche la bomba alla stampa, e la stampa appunto mette in prima pagina anche questo, un attentato, una lettera esplosiva che è arrivata ieri ed è significativo, ve lo leggo la parte finale, il buongiorno di Massimo Grebellini a Posta Ceca, e ricorda appunto che questo invio, questa lettera, questo pacchetto esplosivo è stato scoperto dall'addetto appunto alle poste del giornale, e conclude Massimo Gramellini: viviamo tempi di rancori accumulati e poi sparati alla cieca verso obiettivi indefiniti e simbolici. Perciò vorrei chiarire una cosa che sembrerebbe ovvia, ma evidentemente non lo è. Se il pacco bomba fosse esploso, non avrebbe colpito il sistema o la casta, avrebbe colpito Giampaolo, un grande bravo uomo con due figli, una moglie e un mutuo, che da oltre 20 anni si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare. Ecco, è questa la realtà, è questa la verità. Un attentato che voleva colpire, voleva essere simbolico, un attentato contro un grande giornale come La Stampa, a cui va tutta la nostra solidarietà, ovviamente, che però avrebbe colpito una persona, non avrebbe colpito il sistema. E il sistema è fatto di persone, questo. Non dobbiamo mai dimenticarlo, è fatto di persone che vivono la loro vita quotidiana e a cui il sistema politico spesso è poco attento. Ma andiamo a vedere la politica, questa politica che ci riguarda tutti, che deve riguardarci tutti e che in questa fase è una politica complessa, che riesce a complicare anche un po' le cose, che cerca di fare una mediazione tra gli interessi dei partiti, gli interessi anche personali, le ambizioni anche giuste, personali, e gli interessi del paese, che sono, devono essere al primo posto, devono essere più importanti, ma che sono anche difficili da affrontare. Allora iniziamo vedendo un po' i commenti con La Repubblica. La Repubblica ha un commento di Piero Ignazi, il politologo: una sola strada da seguire, e nelle prime righe di questo commento afferma: se il presidente Napolitano saggiamente non avesse fatto scendere la tensione nominando i due comitati di esperti, una sorta di micro bicamerale, non ci sarebbe stato l'incontro di ieri tra Bersani e Berlusconi. Grazie alla pausa di riflessione presidenziale è maturato un clima meno gladiatorio. Inoltre, all'interno di ciascun partito si è sviluppato un dibattito più articolato. E Piero Ignazi conclude la sua analisi: i tatticismi e le cortine fumogene irritano profondamente un'opinione pubblica stanca di questi 40 giorni improduttivi. Se Bersani ha avuto il coraggio di incontrare in streaming i grillini infischiandosi del bon ton, ha maggior ragione a fronte a carte scoperte la partita del Quirinale. Ancora Piero Ignazi su Repubblica: in un clima di antipolitica imperante, gli incontri riservati, incubatori di possibili trattative segrete e scambi occulti, rischiano di diventare intollerabili per i cittadini. E conclude Piero Ignazi: i colloqui nelle sedi istituzionali vanno bene, purché aperti a tutti, altrimenti la sensazione di Deus Dest nascosti e innominabili inevitabilmente si diffonde. Quindi, una volta concluso questo giro di consultazioni informali, il PD esprima, forte della sua responsabilità di primo partito, un nome di rispetto che rispetti tutte le culture politiche presenti in Parlamento, un nome alto e inattaccabile per competenza e moralità, un difensore dei diritti di tutti, cioè della Costituzione repubblicana. Ecco, Piero Ignazi su La Repubblica, e La Repubblica nella pagina dei commenti auspica anche anche un articolo di Julian Caron, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, in cui il titolo è "Anche in politica l'altro è un bene", e questo commento di Caron conclude: "Nella sua povertà di realtà piena di limiti, la Chiesa continua a offrire agli uomini proprio in questi giorni l'unico vero contributo, quella per cui essa esiste, e Papa Francesco lo ricorda di continuo: l'annuncio e l'esperienza di Cristo risorto. È lui l'unico in grado di rispondere esaurientemente alle attese del cuore dell'uomo, fino al punto di rendere un Papa libero di rinunciare per il bene del suo popolo. Senza una reale esperienza di positività", conclude Julian Caron, "sulla Repubblica, in grado di abbracciare tutto e tutti, non è possibile ripartire. Questa è la testimonianza che tutti i cristiani, a cominciare da chi è più impegnato in politica, sono chiamati a dare, insieme a ogni uomo di buona volontà, come contributo per sbloccare la situazione, affermare il valore dell'altro e il bene comune al di sopra di qualunque interesse partitico". È l'auspicio di Julian Caron, un auspicio certamente condivisibile, ma anche complesso da attuare in una situazione politica, appunto, che ha dei metodi anche di procedere all'interno del proprio cammino, che sono certamente complessi, anche perché appunto gli interessi personali si sommano agli interessi collettivi, sugli interessi collettivi non c'è una visione unitaria. Due scenari da evitare, il titolo del commento sul Corriere della Sera di Angelo Panebianco. Quali sono questi due scenari? Panebianco lo spiega. Lo scenario A da evitare è quello di un accordo al ribasso: si sceglie una figura di scarsa rilevanza in grado di svolgere solo un ruolo notarile, una figura che non riuscirebbe a entrare in sintonia con l'opinione pubblica, ad acquistare quella popolarità e anche quel carisma personale che ormai la dilatazione del ruolo politico della presidenza impone. Lo scenario B, è ancora Angelo Panebianco sul Corriere, anch'esso da evitare, è quello di una scelta di una persona magari anche dotata di un certo prestigio personale di partenza, ma che per le modalità della sua elezione appaia all'opinione pubblica come il presidente di una sola parte. Ecco, poi conclude Angelo Panebianco: "Naturalmente sarebbe anche tempo di capire che se si vorrà mettere in sicurezza la Repubblica non si potrà ancora a lungo pretendere di sostenere il ruolo del Presidente entro le formule costituzionali vigenti. Scusate, di contenere il ruolo del Presidente entro le formule costituzionali vigenti. Occorrerà decidersi a ricomporre il rapporto tra potere e responsabilità mediante la sua elezione diretta. Ma questo passo, così logico e così necessario, richiederà alle classi dirigenti del paese molta più energia morale e intellettuale e molta più forza di quelle oggi disponibili", conclude Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Ecco, appunto, guardando in avanti, pensando alla riforma costituzionale in pratica alla francese, con un Presidente della Repubblica con maggiori poteri diretto direttamente dal popolo, e quindi con la possibilità di intervenire con maggiore efficacia e autorevolezza all'interno del governo, ecco, una prospettiva sicuramente positiva, che sbloccherebbe molta della situazione attuale, ma che appare ancora molto, ma molto lontana. Ci fermiamo un attimo per le previsioni del tempo. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in 3 squilli. Dipendenza, sì. Inizi con 1 litro, ci fai poco ma ti basta, smetto quando voglio, ma poi ne vuoi di più, fai il pieno, non arrivi lontano e ne cerchi ancora, e vivi con la paura di restare a secco, ma puoi uscirne. Alzati e corri in concessionaria! Se vuoi ridurre la tua dipendenza dal carburante, prova Yaris Hybrid, fino a 32 km con 1 litro, e costa quanto un diesel. Gamma Yaris oggi è tua da 10.250 euro, con nuovi interni, clima e radio CD. Provala anche domenica 14. Cerchi agenti di commercio o rappresentanti, vai su agenti.it. Pa, pa, pa, pa, pero. www.agenti.it. Pa, pa, pa, pa, pero. Nasce dal sole in silenzio, si stupisce dei colori della terra da cui si ispira. Rosso, come le passioni, intenso, come il sapore che ne rivela lo spessore. Vero, come il piacere, brinda alle emozioni con te. È il carattere del Monte Pulciano, quello forte e gentile, che racconta l'anima d'Abruzzo. Il Monte Pulciano, piacere d'Abruzzo. Garantisce il Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo. Promozione realizzata con il contributo del FEASR PSR Abruzzo 2007-2013, misura 133. Siamo nella galassia delle ricaricabili. Nuove forme di vita intelligente abitano il pianeta Olin Medium D3. I suoi abitanti comunicano con facilità. Viaggiano alla velocità della luce e non hanno bisogno di nulla perché hanno già tutto. Scegli Olin Medium di 3, il tutto incluso che ti dà 240 minuti, 240 sms e un giga a soli 6 euro al mese. Opzioni in promo solo con portabilità e numero non attivo su 3 da almeno 60 giorni. Costi soglie settimanali info 3.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. Oggi finalmente una giornata dal sapore primaverile in gran parte dell'Italia, e questo nonostante le nuvole che comunque si faranno vedere in diverse zone del paese. Tutto perché la perturbazione numero 5 del mese di aprile si sta allontanando e la pressione sta tornando a salire in tutta la nostra penisola, quindi una giornata con un po' di nuvole ma comunque alternata a sprazzi di tempo bello al nord-est e in molte zone del centro-sud. Prevalenza di cielo sereno invece al nord-ovest e nelle estreme regioni meridionali. E per quello che riguarda le temperature massime un po' dappertutto in crescita e in generale comprese fra 15 e 20 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito www.meteo.it. E con questo è tutto. Una telefonata di notte, una fiammata improvvisa, io mio adesso, la fuliggine tutto nero, gran fumo, probabilmente una scintilla, la produzione ferma, l'assicuratore mi dice chiama Belfort, grazie anche a loro, ma non si vede più nulla del disastro. Belfort è leader nel recupero dopo incendi, alluvioni e inquinamento. Ha creato PIA, pronto intervento azienda, assistenza immediata e priorità di intervento. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro? Scegli Belfort. Classe E, nuova generazione. Nasce la Dream Economy. Tua per 4 anni con Drive Pass Leasing. Da 399 euro al mese e 7.000 euro di anticipo con assicurazione furto, incendio e manutenzione completa inclusi. E poi sei libero di restituirla. Anche diesel ibrida, da 24 km con un litro. Tanfisso 6,99, TAEG 7,92, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Offerta soggetta a restrizioni valida fino al 30 aprile 2013. Fogli informativi in concessionaria. Info mercedesbenz.it. Provala il 13 e 14 aprile. Ciao. Bonarda dell'Oltrepò Pavese, il vino che accende l'amicizia. Il Bonarda dell'Oltrepò Pavese vi aspetta a Vinitaly dal 7 al 10 aprile, Padiglione Lombardia, stand Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Buongiorno, vorrei il mensile plein air. Plein air? Ecco a lei. Grazie, grazie mille. A lei, buona giornata. Chi sceglie Plein Air si immerge nella natura. Plein Air è il mensile per chi viaggia in camper, in caravan, di chi ama i campeggi e le escursioni. Immergiti anche sul web. Su pleinair.it trovi le ultime novità su caravan, camper, assicurazioni ed è per il weekend. In più con Plein Air, gratis ad aprile, la guida agrituristica Agri Plein Air e a maggio la guida agli approdi Portolano. Plein Air, lontano dai soliti viaggi. Buongiorno, è in saldo questo? Secondo lei? Certo che no. Trattati meglio. Le migliori occasioni dai migliori negozianti le trovi su bazak.it, il sito di shopping online con la sicurezza di carta sì. Certo che sì. bazak.it. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi innovazione nell'HR? adp-italia.com. 24 mattino. Rieccoci a voi, buongiorno ancora da Gianfranco Fabi, eccoci di fronte ai giornali di oggi, cercando di guardare attraverso le prime pagine come sta andando questo mondo. Ne parliamo molto di politica, in primo piano c'è l'incontro di ieri Bersani-Berlusconi, l'avvicinarsi della scadenza del 18 aprile, quando inizieranno le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, una crisi politica che è ancora aperta. Di questo parleremo anche nella seconda parte, dalle 8:15 in poi, e già da ora vi invito a telefonare all'800 24 00 24, dalle 8:15 in poi, e a mandare anche subito i vostri messaggi al 349 238 6666. Ecco, come vi dicevo, gran parte delle prime pagine sono dedicate a queste larghe intese, almeno potenziali, potenzialmente possibili, qualcuno se lo augura. L'Unità, che appunto ha questo titolo, larghe intese per il Colle, ha un commento di Alfredo Reichling dove torna una parola che viene spesso usata, anche se è spesso usata poi per guardare le cose dalla propria parte, ed è la verità. E Alfredo Reichling dice: non si esce da questa crisi senza un serio discorso di verità, e a me la verità sembra la seguente. E già qui il fatto che Reichling dica sembra la verità vita di solito è qualcosa di sicuro. Comunque andiamo avanti. Da un lato, per risolvere i drammatici problemi che massacrano il paese servono larghe intese, il PD da solo non ce la può fare, e serve anche tra destra e sinistra un reciproco riconoscimento. Dall'altro lato però la condizione è che la gente ritrovi un minimo di fiducia nella politica e che quindi non pensi che quattro signori sono messi d'accordo tra loro per spartirsi il potere e risolvere i propri problemi personali. Il mondo, non solo il nostro, ha bisogno assoluto di giustizia. Se vede solo un inciuccio è la fine. Alfredo Reichlin sull'Unità. Ecco, questa esigenza di verità è richiamata anche da Maria Giovanna Maglie, probabilmente un'altra verità, da su Libero, nel suo commento su Libero. Il PD che da elezione al Movimento 5 Stelle si è fatto umiliare fino a ieri, ovviamente è visto dal fronte opposto. La verità, si chiede Maria Giovanna Maglie, le commissioni si potrebbero anche fare. Sappiamo appunto che ieri, questo è un mio inciso, che ieri c'è stata questa occupazione del Parlamento per il Movimento 5 Stelle, reclamava il fatto che il Parlamento iniziasse a funzionare. Ma andiamo avanti con Maria Giovanna Maglie. Le commissioni si potrebbero anche fare, come spiega un costituzionalista non certo di destra come Michele Ainis, con presidenti temporanei e accordo tra tutti i partiti per dimissioni e sostituzioni secondo le regole della prassi a governo insediato. Il PDL ha scelto di seguire la prassi, ma il PD, che insegue ancora il Movimento 5 Stelle, perché si accoda timoroso? Ti conosco mascherina, viene da pensare Bersani style, afferma Maria Giovanna Maglie su Libero. Per una volta persino Grillo ha qualche ragione nel denunciare la melina ignobile, la perdita sconcia di tempo nel prendere una qualsiasi decisione, che sia di intesa di governo, di ritorno al voto, di elezione del Presidente della Repubblica. Ma chi è il responsabile di oltre 40 giorni di stallo? Chi ha perso tempo con Grillo? Chi rifiuta anche le richieste esplicite del Presidente Napolitano perché si arrivi a larghe intese? Di nuovo, conclude Maria Giovanna Maglie, ti conosco mascherina, ed è appunto quella frase ad effetto detta ieri da Bersani alla vigilia appunto dell'incontro con Berlusconi. Ti conosco mascherina, che ormai è entrata nel linguaggio politico, è entrata nel linguaggio proprio anche per prendere un po' in giro questo modo di fare delle battute per affrontare dei problemi complessi. Vi dicevo di altri temi sulle prime pagine dei giornali. Uno molto importante è quello dell'ILVA. L'ILVA svolta e non chiude, da Avvenire, che dà appunto anche lo spazio del proprio editoriale su questo tema. La sentenza della Corte Costituzionale secondo cui il decreto del governo non viola parametri costituzionali di difesa della salute e dell'ambiente. E adesso al lavoro è il commento di Antonio Maria Mira, che appunto sottolinea nella sua conclusione: è proprio chi fa politica che tocca il difficile ma indispensabile compito della mediazione, che non rinuncia ai capisaldi, soprattutto quando in campo ci sono valori così importanti, soprattutto in un tempo nel quale vanno molto di moda i no distruttivi. Ne siano capaci i nostri politici con l'intelligente concordia, senza tentennamenti, senza favoritismi al potente di turno. Anche qui viene appunto in questo commento di Antonio Maria Mira su Avvenire proprio il richiamo a una politica che sappia affrontare le cose concrete, che sappia intervenire. E il caso dell'IVA è molto importante, è una grande fabbrica che dà lavoro a moltissime persone. E buon senso è il commento di Alberto Orioli sul Sole 24 Ore: non è riscontrabile in alcun codice né a un retroterra normativo esplicito in articoli e commi, ma il buon senso è la vera testimonianza costituzionale che ieri i giudici della Consulta hanno affidato alla scelta di rigettare la questione di legittimità sulla legge che consentiva di proseguire la produzione di acciaio all'ILVA di Taranto e nel contempo di realizzare il piano di modifica del sito. Lavoro e salute, diritti primari, hanno trovato un equilibrio su una questione drammatica. Superata una fase segnata da aspri toni e da furori, è il momento di fare di tutto e in fretta per trasformare quell'impianto città in un luogo simbolo dello sviluppo sostenibile. Si può fare, basta volerlo, si può fare, cioè afferma Roberto Ioli, le cose si devono fare le cose concrete, quelle che aiutano appunto l'economia a girare, che aiutano a risolvere anche problemi difficili come quelli della compatibilità tra salute e lavoro, ma problemi che devono essere risolti. Torniamo sul tema dell'eredità anche intellettuale e politica di Margaret Thatcher, perché un interessante articolo di Giulio Sapelli, tra Stato e mercato, l'eredità di salvare, è l'editoriale del Messaggero di oggi. Messaggero, che tra le altre cose ha ovviamente in prima pagina anche gli incidenti che sono stati ieri prima del derby tra la Roma e la Lazio, e col prefetto di Roma che dice: a Roma mai più derby di sera. Ecco, non so se questo può essere una soluzione, ma torniamo al commento di Giulio Sapelli. Giulio Sapelli appunto parla dell'eredità di Margaret Thatcher e dice nella conclusione del suo articolo: il giudizio storico sulla Thatcher non può darsi oggi in piena recessione mondiale senza tenere a mente che la sua politica ispirò, ai noi, i cavalieri dell'apocalisse finanziaria, che vennero dopo di lei e ne tradirono l'ispirazione profonda. Politicamente Bill Clinton e Tony Blair infatti fecero nella finanza ciò che la Lady di Ferro fece nell'industria, ma ciò ebbe effetti tutti diversi: sregolare la finanza, consentendo la vendita senza controllo di asset tossici e ad altissimo rischio. Tutto ciò ci ha sprofondati nella più grave depressione economica della storia. Le classi medie, ancora Giulio Sapelli sul Messaggero, sono le più colpite dalla crisi finanziaria. Il Regno Unito oggi tende di uscire dall'ascito dei sopra ricordati nefasti imitatori, invertendo la rotta e cercando di reindustrializzare la nazione. Gli Stati Uniti del resto sono posti decisamente alla testa di questo processo, anche ricorrendo allo Stato, che sta riconquistando in questa crisi un ruolo che la Thatcher mai avrebbe voluto. Il pendolo inizia una nuova, diversa oscillazione, conclude Giulio Sapelli. Va verso un'economia mista, però con meno burocratica di un tempo e maggiormente sottratta al dominio dei partiti. La meteora della Thatcher non è passata invano nel cielo della storia. I partiti politici, soprattutto coloro che hanno nelle mani il destino del paese, dovrebbero ripassare meglio quelle pagine inglesi. Ecco, questo è il commento di Giulio Sapelli, diciamo il giorno dopo, e anche un commento ai commenti sulla Thatcher: da una parte commenti positivi, dall'altra commenti che, come per esempio quello di Romano Prodi ieri sul Sole 24 Ore, che mettevano in luce gli aspetti critici di una gestione della politica che lasciava poco spazio appunto alla mediazione della vera e propria politica, quindi al ruolo dello Stato. Ma secondo Sapelli si tratta appunto di non essere dogmatici, ma di cercare che la politica abbia il suo posto, ma che lo Stato non sia troppo invadente, che lo Stato sia capace appunto di affrontare in maniera costruttiva anche i problemi. È quello che per esempio sottolinea Gianmaria Grospietro sul Sole 24 Ore, proprio commentando le due facce del codice rosso, cioè dell'allarme che le imprese stanno lanciando perché si intervenga per aiutare appunto la ripresa economica. Ecco, Gianmaria Grospietro in conclusione quasi auspica che ci siano ancora servizi positivi in termini di adempimenti risolti per conto delle imprese anziché ad essere richieste da parte della pubblica amministrazione, perché se tagliare i costi della burocrazia può aggravare la crisi di domanda, sarebbe splendido se la crisi avesse il potere di costringere la burocrazia a erogare servizi utili. Ecco la visione di uno Stato in questo commento di Gianmaria Grospietro, che aiuti le imprese e non metta degli ostacoli, degli intralci, delle procedure, delle norme, delle tasse, dei balzelli. Ecco, è una visione dello Stato che affianca le persone, le imprese, che sia capace appunto di aiutare la crescita dell'economia. 24 mattino. Di nuovo buongiorno, abbiamo la lettura dei giornali da concludere, ma la concludiamo collegandoci con Daniele Bellasio. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Daniele Bellasio, caporedattore del Sole 24 Ore, abbiamo già citato durante la nostra rassegna stampa il titolo di apertura del Sole 24 Ore sulla chiusura di 4.218 imprese, questo contatore della crisi che segnala purtroppo, speriamo che a un certo punto si fermi, i fallimenti del giorno. Ecco, cosa c'è nel Sole 24 Ore di oggi oltre a questo? Sì, diciamo che questa appunto è l'iniziativa principale che da oggi, anche in vista degli stati generali delle piccole e medie imprese a Torino venerdì e sabato, iniziamo a raccontare appunto il malessere delle imprese, che poi è il contatore della crisi del paese, perché aziende che chiudono significa appunto disoccupazione, consumi in calo. Gli altri due punti forti del Sole 24 Ore di oggi sono: la prima guida al modello 730, perché quest'anno il 730 è stato semplificato per certi versi e dovrebbe attrarre sempre più contribuenti all'utilizzo di questa formula appunto semplificata del 730. Quindi allegato al Sole 24 Ore c'è il primo, la prima guida tabloid che il Sole produce appunto per tutti coloro che vorranno usare il modello 730, 24 pagine con tutte le risposte a tutte le domande sui redditi da, dalla casa al lavoro, insomma un inserto davvero speciale. Ecco, che potrebbe aiutare anche a pagare meno tasse, perché il sistema italiano è talmente complesso che c'è probabilmente anche qualche detrazione o qualche sconto possibile di cui spesso non ci accorgiamo, soprattutto se facciamo i fai da te. Ecco, leggere questi supplementi si potrebbe aiutare magari a scoprire che potremmo pagare meno tasse di quante ne paghiamo, e comunque sono sempre troppe. Assolutamente, assolutamente. L'altra cosa importante invece è legata a un tema di cui si è parlato molto in questi giorni, il decreto per lo sblocco dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle aziende, un altro grosso problema della nostra economia in questi giorni. Noi sul Sole 24 Ore di oggi, attraverso un dizionario, cerchiamo di rispondere a tutte le domande legate a come si fa. Ok, io sono una piccola media azienda che ha un credito nei confronti dello Stato, come faccio dopo che il decreto è stato approvato e sul sito del Sole 24 Ore si può leggere sia il decreto sia le spiegazioni, come faccio materialmente a svolgere tutte le procedure per ottenere lo sblocco di questi crediti? Ecco, appunto, attraverso un dizionario, una pagina intera, oggi sul Sole spieghiamo come si fa. Grazie mille, grazie a Daniele Bellasio, buon lavoro per il Sole di domani. Continuiamo, anzi concludiamo il nostro viaggio sulle pagine dei giornali con alcune curiosità, se vogliamo, ma anche non troppo, nel senso che per esempio è interessante l'articolo di George Soros sul Corriere della Sera, e Soros fa una previsione che forse è anche un auspicio, cioè che la Germania lasci l'Unione Monetaria Europea, ed è in fondo una provocazione. La Germania ha il diritto di rifiutare gli eurobond, faccio un inciso, gli eurobond sono la proposta fatta per esempio in Italia da Alberto Quadriocruzzi e Romano Prodi di fare delle emissioni che possono raccogliere sui mercati finanziari dei fondi per finanziare nuove infrastrutture, quindi in qualche modo per rilanciare l'economia dei singoli paesi. Ecco, ma torniamo a George Soros: la Germania ha diritto di rifiutare gli eurobond, ma non di impedire che i paesi altamente indebitati sfuggano alla loro disgrazia aggregandosi ed emettendo eurobond. Se la Germania si oppone, dovrebbe valutare l'idea di lasciare l'euro. Sorprendentemente, gli eurobond emessi da un'eurozona senza la Germania reggerebbero ancora bene il confronto con le obbligazioni americane, inglesi e giapponesi. Ecco, ricordo che George Soros è un grande finanziere, uno dei finanzieri che ha fatto anche la sua fortuna grazie alle difficoltà delle monete europee, sapendo prevedere in tempo le svalutazioni che negli anni 90 contraddistinguevano l'Europa. Ma torniamo al suo articolo sul Corriere della Sera. La ragione è semplice sul fatto che appunto i paesi deboli possano emettere degli eurobond. La ragione è semplice: dal momento che tutto il debito accumulato è denominato in euro, la differenza la fa quale paese lascia l'euro. Se la Germania dovesse abbandonare l'euro si deprezzerebbe, i paesi debitori riguadagnerebbero competitività, il loro debito diminuirebbe in termini reali e se mettessero eurobond la minaccia di default svanirebbe. Il debito diventerebbe improvvisamente sostenibile, allo stesso tempo gran parte del peso dell'aggiustamento ricadrebbe sui paesi che hanno lasciato l'euro, le loro esportazioni diverrebbero meno competitive e incontrerebbero una pesante concorrenza dell'area euro nei loro mercati nazionali. E qui Soros si riferisce ovviamente alla Germania. Ecco, proprio questo forse lascia intravedere che questo esercizio di George Soros è un esercizio abbastanza teorico. Molto concretamente, la Germania farà di tutto per mantenere lei nell'euro e gli altri paesi nell'euro, perché ha tutto da guadagnare e quindi forse aiuterà anche i paesi in difficoltà ad uscire dalle difficoltà. Questo ce lo auguriamo, magari una volta superata lo scoglio delle elezioni che anche in Germania ci sono verso fine anno, in autunno, e che secondo i primi sondaggi lasciano intravedere una conferma del cancelliere Angela Merkel. Vi segnalo anche, guardando appunto il giornale di oggi, un'intervista al presidente dell'Austria Abi e il presidente Antonio Patuelli, che difende ovviamente, fa il suo mestiere, l'attività delle banche, dicendo che le banche appunto hanno certamente acquistato titoli di Stato, ma l'hanno fatto anche per mantenere bassi i tassi di interesse, che quindi continuano a dare con questo fondi alle imprese. Ecco, ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa, l'appuntamento è alle 8:20, parleremo di politica, ne parleremo con costituzionalisti, con politici, con esperti della politica, per vedere all'interno della situazione politica cosa si può fare per uscire, anche utilizzando le norme attuali, da questa situazione. Vi ricordo il 349-238-6666 per i messaggi SMS, l'800-24-0024 come numero verde. A più tardi. Mattino. La politica nel tunnel. Buongiorno, bentornati da Gianfranco Fabi. La politica nel tunnel. Cercheremo in questa parte di 24 mattina di scavare un po' all'interno del sistema politico, andando un po' al di là delle polemiche sulle coalizioni, sugli appoggi, sulla formazione del governo, sulle tattiche dei partiti, ma prendendo un po' spunto da quanto è avvenuto ieri, cioè con l'occupazione da parte del Movimento 5 Stelle della Camera del Senato, un'occupazione simbolica, pacifica, ma che ha messo in luce il fatto che il Parlamento, a 40 giorni dalle elezioni, non ha ancora iniziato a funzionare, proprio perché non c'è un governo. Il governo Monti va avanti per l'ordinaria amministrazione, nella prassi normale, per formare le commissioni e quindi per iniziare i lavori, per poi le commissioni sono quelle che danno il lavoro all'Aula per i voti finali, ecco che ci vuole un governo, perché le commissioni nella prassi sono formate da una maggioranza e da un'opposizione, con la maggioranza che ha le commissioni, che controlla le commissioni, diciamo, di amministrazione normale, e l'opposizione che invece ha la presidenza delle commissioni di controllo. Ecco, in questa situazione uno dei temi è proprio la funzionalità del Parlamento, uno dei temi è la funzionalità anche di questo sistema, politico, che mostra molte crepe, molte incertezze nella stessa capacità di formazione del governo, anche perché c'è una legge elettorale che non è in grado, ha dato una maggioranza fin troppo ampia, con un premio di maggioranza fin troppo ampia alla Camera, ma con la base regionale per cui ha eletto il Senato, ecco che al Senato c'è il bipartitismo si è trasformato in un tripartitismo, con un centro che comunque ha anche un suo peso, una sua funzione, quindi con tre forze contrapposte, che con un sistema poi di veti incrociati che è prevalso negli ultimi tempi non riescono più a muoversi. Ecco, buongiorno a Massimo Mucchetti. Buongiorno. Massimo Mucchetti, neo senatore della Repubblica, del Partito Democratico, già vice direttore del Corriere della Sera. Ecco, vorrei chiederti innanzitutto qual è stato il primo impatto con il Senato. Beh, il primo impatto è di un luogo abbastanza civile nei rapporti fra le persone, da parte di tutti, e però di un'assemblea che fatica a decollare nel lavoro. Ecco, questo è il primo impatto. È abituato alla produttività delle redazioni, qui la formazione delle decisioni è assai più macchinosa, ma questi sono anche un po' i tempi della democrazia. Ecco, c'è un po' di differenza tra il fare il giornale tutti i giorni, bisogna comunque farlo e ogni giorno va fatto un giornale nuovo, e invece un Parlamento che ha questi tempi lunghi, ma i tempi lunghi però che devono anche confrontarsi con un paese, e si dice forse con un luogo comune, il paese non aspetta, l'economia non aspetta, i mercati si aprono tutti i giorni, danno i giudizi tutti i giorni. Ecco, forse la politica dovrebbe darsi una mossa. Sì, l'importante è che la politica però faccia bene. Direi che mi rendo conto che può essere impopolare dirlo, ma un giorno avanti e indietro non cambia la vita. Una decisione pesantemente sbagliata può produrre danni che poi dopo devono essere pagati da tutti e per tanto tempo a venire. Quindi direi che la preoccupazione maggiore è quella di lavorare bene, anche perché fare una buona legge non è come scrivere un articolo, è un pochino più difficile. Sì, certo, certamente più impegnativo e certamente, ecco, un articolo si può anche correggere, ci possono essere appunto delle correzioni, delle smentite che vanno doverosamente pubblicate il giorno dopo, la legge fa i suoi danni. Ma come si sente Mucchetti con questo fatto che un'ora sì e un'ora no si parla di elezioni anticipate? Vi hanno appena eletto e adesso bisognerebbe tornare alle urne. Da un certo punto di vista deve essere un po' disarmante. Ma no, diciamo che è un dato di fatto questo, che deriva dal tipo di risultato elettorale che abbiamo avuto. Tra l'altro noi abbiamo un sistema politico che è organizzato per funzionare più o meno bene, più male che bene, ma comunque per funzionare con due schieramenti, e invece ne abbiamo tre che non riescono, nessuno dei quali va d'accordo bene con un altro, e quindi la situazione è effettivamente molto traballante, lo è nei fatti. E io credo che qualsiasi accordo possa essere mai raggiunto, ammesso che ci si arrivi, io me lo auguro, ma penso che poi dopo sia comunque un accordo destinato ad essere fragile, come dimostra del resto l'esperienza del governo Monti. Ecco, prima di presentarvi gli altri ospiti, vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri messaggi sms, l'800-24-0024 per le vostre telefonate su questo tema di oggi, che non è tanto il tema strettamente politico degli accordi tra i partiti, quanto il tema un po' funzionale di una politica, che è strutturata secondo una prassi, secondo un Parlamento, un governo, che appunto hanno delle basi costituzionali, ma che poi hanno, in queste basi costituzionali sono inserite anche dei modi di funzionare che negli ultimi tempi sembra che in un certo senso ostacolino più che accelerare e dare funzionalità al Parlamento e al governo. Buongiorno professor Lorenzo Cuocolo. Buongiorno a voi. Docente di diritto comparato all'Università Bocconi, direttore del sito dedicato all'autorità costituzionale Il Ricostituente, questo è già un programma, c'è un po' da ricostituire, professor Cuocolo. Beh sì, la nostra è un po' una provocazione, qualcosa da modificare sicuramente c'è, ma bisogna anche stare attenti a non buttare via le cose buone, i tempi lunghi, concordo con quello che avete appena detto, sono sotto un certo profilo l'essenza della democrazia, il confronto, il dialogo sono l'essenza della democrazia, bisogna che i tempi lunghi non diventino tempo perso, ecco. Certo. Il confine a volte è molto sottile anche per gli studiosi di diritto costituzionale. Buongiorno Giuseppe Bedeschi, buongiorno professore. Buongiorno direttore. Giuseppe Bedeschi è autore per Rubettino del volume La Prima Repubblica, che è uscito in questi giorni, docente di storia della filosofia all'Università La Sapienza di Roma. Professor Bedeschi, nella Prima Repubblica di fatti, di periodi di questo tipo ce ne sono stati? Penso che ci sia una continuità su molti problemi importanti fra la Prima Repubblica e la Seconda Repubblica e per dirla schietta mi pare che la Seconda Repubblica abbia ereditato tutti o molti dei veleni della Prima. In primo luogo ha ereditato l'incapacità dei partiti e della classe politica di riformare istituzioni ormai decrepite, a partire da un bicameralismo assolutamente perfetto che ritarda enormemente il processo legislativo. Per non parlare poi della debolezza dell'esecutivo, del tutto alla mercé del legislativo, con l'assurdo che un Presidente del Consiglio non può nemmeno destituire un Ministro. Inoltre la Seconda Repubblica ha ereditato dalla Prima, direi, la demonizzazione dell'avversario, che non è semplicemente appunto un avversario da combattere politicamente sul terreno della politica, ma è un nemico da annientare. Poi la Seconda Repubblica ha ereditato dalla Prima un debito pubblico enorme, che era già enorme ai tempi di Craxi e che è una vera e propria croce per l'Italia, un debito al quale non si vuole far fronte con tagli di bilancio nel settore delle spese improduttive. Ricordo che il governo Monti aveva anche istituito una commissione presieduta dal professor Giavazzi che doveva indicargli appunto le spese improduttive da tagliare, e la commissione Giavazzi presentò un esame dettagliato, ma poi non se ne è fatto nulla, così come non si è fatto nulla con la dismissione del patrimonio pubblico immobiliare. A questo proposito ricordo che il ministro Grilli, poco prima delle elezioni, aveva fatto delle promesse molto molto precise, indicando anche delle cifre precise che potevano essere recuperate. Poi, altro elemento di continuità fra la prima e la seconda Repubblica è l'incapacità di ridurre realmente i costi enormi della politica, con la soppressione del finanziamento pubblico ai partiti, il dimezzamento dei parlamentari, la soppressione delle province e via enumerando. Ecco, tutte queste incapacità appunto che si sono riprodotte della Seconda Repubblica, però la Prima Repubblica non è stata sempre così. I primi anni dopo la Costituente, i primi anni del governo De Gasperi, forse la politica qualcosa di costruttivo lo ha fatto. Poi quando si è persa questa capacità costruttiva? Professor Bedeschi. Sì, secondo me il periodo più creativo della Prima Repubblica è stato il cosiddetto centrismo, il centrismo di Gasperiano. La cosa può suonare curiosa perché nella gran parte della storiografia e anche persino nei testi scolastici il centrismo viene sempre presentato come un periodo di conservazione e così via. In realtà da un punto di vista di politica economica, Einaudi, come ben noto, Luigi Einaudi ebbe un'enorme importanza nel dare indirizzi liberali. Quello fu un periodo molto molto creativo che poi pose le premesse per il miracolo economico. Direi che una vera e propria svolta nella Prima Repubblica è avvenuta dopo la morte di De Gasperi con Fanfani. È Fanfani che introduce una mentalità e una politica profondamente statalistica, che dilata il settore pubblico dell'economia, che ricorre per il finanziamento alla Democrazia Cristiana, ricorre alle imprese pubbliche, all'IRI, all'ENI e via dicendo. Secondo me la figura di Fanfani è sotto questo profilo una figura chiave, perché ha realizzato una vera e propria svolta in senso statalistico nella storia della Repubblica. Ecco, questo mi sembra interessante, professor Bedeschi, perché affiancato a una pervasività della politica nella società italiana c'è anche il fatto di una politica che poi non ha saputo rinnovarsi, che ha cercato soprattutto di mantenersi. In questa prospettiva vorrei chiedere al professor Cuocolo se appunto questa capacità riformistica, una nuova capacità riformistica, da cosa può partire in questa fase. Ma anzitutto vorrei sottolineare che per i costituzionalisti la distinzione tra prima e seconda o terza repubblica non esiste, nel senso che la nostra Costituzione è sempre la stessa. Ci sono stati dei cambi epocali che, se noi andiamo a vedere, sono stati determinati per lo più dalla modifica dei sistemi elettorali. Noi il primo cambio lo abbiamo avuto tra il 93 e il 94 con la prima grande vittoria di Berlusconi, favorita dalla nuova legge elettorale, e poi il secondo cambio è quello del famigerato Porcellum ci portiamo ancora dietro. Probabilmente uno degli elementi essenziali per favorire il cambiamento è ancora una volta, può essere ancora una volta nel futuro, il cambiamento della legge elettorale. Non dimentichiamoci che oggi noi siamo concentrati sui tecnicismi del singolo comma, del singolo articolo, del singolo regolamento parlamentare, ma tutto questo caos istituzionale è stato originato da una, consentitemi di dire, scellerata legislazione elettorale che si è dimostrata incapace di esprimere una maggioranza politica. Se noi avessimo avuto una legge con un sistema quantomeno di premio di maggioranza differente, noi oggi, nel bene o nel male, a destra, a sinistra, al centro, 5 Stelle o non lo so, ma avremmo un governo della Repubblica. 24 mattino. Bentornati a 24 mattina, stiamo parlando di politica, di come uscire da questo stallo della politica. Ne stiamo parlando con il professor Lorenzo Cuocolo, docente di diritto comparato pubblico all'Università Bocconi, con il professor Giuseppe Vedeschi, docente di storia e filosofia all'Università La Sapienza di Roma e autore del libro La Prima Repubblica, e con Massimo Mucchetti, senatore, neosenatore del Partito Democratico. Sono molti messaggi, ce n'è uno un po' curioso, vorrei una risposta rapida da Mucchetti, che dice: ma perché il PD non appoggia un governo 5 Stelle? Se vogliamo il cambiamento, questo è il vero cambiamento, Mucchetti. Beh, perché mi sembra un po' curioso che uno schieramento che ha ottenuto il 25% dei voti chieda, senza negoziare nulla, l'appoggio di uno schieramento un po' più grande. Io penso che se per esempio il Movimento 5 Stelle indicasse un candidato premier, qualche ministro, ci dicesse qualche cosa di più, perché i 20 punti del suo programma sono 20 titoli, cioè non sono punti di un programma. Beh, anche gli 8 punti di Bersani sono 8 titoli. Beh, c'è una differenza, no, che lei la coglie. Cioè, ci sono dei partiti che nel bene e nel male hanno una storia, per cui quando dicono una cosa si sa che cosa hanno fatto nel bene e nel male, torno a dire. Certo. Cioè, sono un po' più evocativi. Quando uno non ha mai fatto nulla, diciamo, ha l'esigenza, ma io lo dico proprio, mi ricordo che fino all'altro ieri facevo giornalista, quindi se io dovessi scrivere un articolo e raccontare, faccio fatica, perché le uniche esperienze di governo del Movimento 5 Stelle di una qualche importanza sono quelle di Parma, dove, come voi ricorderete, il sindaco attuale aveva vinto la campagna elettorale promettendo che mai nella vita si sarebbe fatto l'inceneritore, cioè il termovalorizzatore, che se proprio c'erano delle penali da pagare si sarebbero pagate in qualche modo e che mai si sarebbero aumentate le tasse. Una volta al governo, davanti alla necessità di assumersi delle responsabilità precise, il sindaco di Parma, Pizzarotti, se la memoria non mi tradisce il nome è questo, sì, è ha varato il termovalorizzatore nei termini che erano previsti prima e ha aumentato le imposte comunali. Quindi bisogna anche che ci capiamo, certo, no, da questo punto di vista, altrimenti parliamo genericamente. Grazie mille Mucchetti, la domanda era ovviamente provocatoria. Sentirei gli ascoltatori, soprattutto sul tema delle elezioni. Severino dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ma io sono, diciamo, un politico di periferia, di provincia, e continuo a stupirmi, diciamo, a essere, potrei dire, anche un po' scandalizzato dalla facilità con cui si considera la variabile elezioni anticipate come una fra le tante sul tavolo. Per me è la fotografia anche di una situazione aberrante, un po' di ribaltamento dei ruoli che abbiamo e denunciamo ormai da tempo. Le elezioni determinano, a mio avviso, una configurazione del Parlamento, e questo spetta ai cittadini. Queste sono le condizioni e le regole in cui si gioca la partita. Certo. I giocatori, cioè i partiti, devono giocare la partita. Possono decidere: mi rifiuto di giocare perché è una situazione difficile. Mi viene il paragone, visto che siamo in periodi di quarti di finale, è come se una squadra, voglio dire, rifiutasse di giocare il turno di Champions perché il sorteggio ha riservato un avversario problematico, ostico, una trasferta antipatica. Allora, diciamo, in bocca al lupo alla Juventus per questa sera, che si trova di fronte al Bayern di Monaco e che giocherà sul campo. Grazie per questo paragone. Gianluigi da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io ricordo ancora prima degli anni 90, quando le crisi dei consigli comunali erano frequentissime. Poi l'adozione della legge elettorale doppio turno ha consentito di avere governi nelle città stabili. Non si può, visto che ha funzionato così bene quella legge elettorale, applicarla con le dovute adattamenti anche al nostro Parlamento. In questo modo, al secondo turno sapremmo chi è il primo ministro, chi è lo schieramento di maggioranza, e potremmo governare dal giorno dopo. Grazie mille per questa osservazione, mi sembra molto pertinente. Il problema di fondo per parlare di nuove elezioni è quello di cambiare la legge elettorale, perché sennò il rischio di trovarsi in una situazione come l'attuale è un rischio vero, concreto e reale. Questo è il problema tema di fondo. Io volevo chiedere a professor Bedeschi, proprio prendendo spunto dalla legge elettorale, nella Prima Repubblica c'è stato nel 1953, se non sbaglio, la grande polemica sulla legge truffa, ma al confronto di quella legge truffa, la legge attuale è una legge da rapina del secolo, professor Bedeschi. È una legge super truffa, perché la cosiddetta legge truffa, che in realtà poi proposta da De Gasperi, che in realtà era una legge maggioritaria, prevedeva il premio di maggioranza allo schieramento che avesse sì, conseguito il 52% dei voti. Infatti non scattò poi dopo le elezioni. Non scattò per poche decine di migliaia di voti, ma resta il fatto, insomma, che il premio di maggioranza andava allo schieramento che avesse conseguito il 51%. Nel Porcellum invece, come sappiamo bene, basta un numero infinitamente minore di voti per avere il premio di maggioranza, quindi questa è veramente una legge truffa. Quella di De Gasperi era una legge maggioritaria, questa è una vera e propria legge truffa. Ecco mi domando, sì, come mai la sinistra che ha governato con Prodi, mi riferisco all'ultimo governo Prodi 2006-2008 se non vado errato, ecco, come mai in quegli anni, in quei due anni, la sinistra non abbia modificato il Porcellum? Questo per me è un vero e proprio enigma. Ecco, non possiamo chiederlo a Massimo Mucchetti, perché allora faceva il giornalista, forse può rispondere da giornalista, ma non ha avuto il tempo di fare tante cose il governo Prodi, anche perché era un governo di coalizione in cui c'era di tutto. In quel governo, quando ne parla, dice il professor Prodi, dice che nel suo governo c'erano più persone che non nella all'Assemblea Generale dell'ONU, insomma, perché veramente c'erano tante voci ed era stato difficile governare anche con questo governo di coalizione. Ma professor Cuocolo, vorrei appunto chiedere se sul fronte della legge elettorale si può pensare, con l'attuale composizione del Parlamento, di fare qualcosa. Ma dal punto di vista tecnico sì, dal punto di vista politico ovviamente si complica tutto. Vorrei precisare alcuni aspetti anche in relazione alle telefonate giunte prima. È giusto giocare la partita, come diceva prima l'ascoltatore, ma per giocare la partita ci devono essere due squadre nette, ci deve essere la squadra dei rossi e la squadra dei blu. Noi oggi non sappiamo quali sono i rossi e quali sono i blu. Il problema della legge elettorale, prodotto dalla legge elettorale, è proprio questo, che noi abbiamo delle maggioranze incerte e diverse tra i due rami del Parlamento, e visto che, appunto, come è stato prima ricordato, siamo in un sistema bicamerale perfetto dove entrambe le Camere devono accordare la fiducia al governo, ovviamente in entrambe le Camere presupposto è che ci sia la medesima maggioranza politica. Ora, modificare il sistema per renderlo simile a quello comunale, quindi con una sostanziale elezione diretta del Presidente del Consiglio, è una strada molto complicata, perché richiede una modifica della Costituzione, quindi con i tempi lunghi e con le maggioranze molto ampie che sono richieste dalla procedura di revisione costituzionale. Ma anche senza toccare la Costituzione si può modificare la legge elettorale ordinaria, si può modificare in molti modi. Probabilmente quasi tutti sono in un senso migliorativo rispetto a quello attuale, perché al di là del discorso del carattere, diciamo così, in senso lato truffaldino di questa legge, che assegna un premio di maggioranza sproporzionato a chi ottenga anche solo un voto più del secondo classificato, noi abbiamo il problema, che è ancora maggiore, di un premio di maggioranza che funziona con meccanismi diversi alla Camera e al Senato. Quindi è una truffa riuscita male, e con risultati di paralisi istituzionale. Ecco, un ascoltatore con SMS ci chiede se questa legge elettorale può essere modificata con un decreto del governo. Le lascio la domanda aperta, lasciamo però un attimo di spazio alle notizie sul traffico. Ah, c'è un problema sul traffico, allora professor Cuocolo può risponderci subito sul fronte della... È possibile fare un decreto del governo che modifichi la legge elettorale e che si vada a votare con questo decreto probabilmente prima che il Parlamento lo ratifichi? Ma la questione è molto dibattuta fra gli studiosi di diritto costituzionale. Diciamo che non ci sono degli elementi formali per sostenere che ciò non possa accadere. C'è anche da dire che quando si formò il governo Monti, l'accordo di fondo fu: il governo fa quello che deve fare il governo, cioè prendere le decisioni impopolari sui tagli delle spese e quant'altro, il Parlamento fa quello che deve fare il Parlamento, cioè modifica la legge elettorale. È passato quindi, un anno e non ha fatto nulla. Quindi, ognuno si prenda le sue responsabilità. Certo, e sarebbe ancora diciamo più bizzarro e più anomalo se facesse un decreto di questo tipo un governo dimissionario, quando non l'ha fatto né il governo nella pienezza delle sue funzioni, né il Parlamento nella pienezza delle sue funzioni. Rieccoci per l'ultima parte della nostra 24 mattina. Stiamo parlando di politica, stiamo cercando di affrontare in maniera un po' pacata per quanto possibile, non sono pacati molti messaggi SMS che sono molto critici, focosamente critici contro la casta che non riesce a cambiare nulla. Un messaggio dice: ma i politici non cambieranno mai la legge elettorale, perché questa legge elettorale garantisce ai partiti di poter decidere loro chi entrerà nelle liste e chi sarà addirittura eletto, e quindi i partiti hanno un controllo diretto della situazione. E un altro messaggio ci dice: voi giornalisti non appoggerete mai il Movimento 5 Stelle perché vuole abolire il finanziamento pubblico ai mezzi di informazione. Finanziamento pubblico peraltro che non c'è quasi più, e quindi c'è poco da abolire in questo senso, ma almeno per quanto mi riguarda i giornalisti non appoggiano l'uno o l'altro, vorrebbero solo che si facesse qualcosa per questo paese che è in gravi difficoltà, che ha bisogno di un governo, che ha bisogno di qualcuno che decida per il bene comune, non per l'interesse personale. Mario da Torino, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, prego, dica. Sì, buongiorno, guardi, io ho chiamato proprio per un impulso quando ho sentito una dichiarazione del signor Mucchetti poc'anzi riguardo alle promesse non mantenute dal sindaco di Parma relativamente al rinceneritore e tutto. Quello che mi ha dato fastidio è che sta parlando in contrapposizione a un'inattività del Partito Democratico, comunque di tutto il gruppo maggioritario della sinistra, che si è visto, che ha permesso che venisse smantellato buona parte dello Stato sociale, buona parte del sistema pensionistico e dell'articolo 18, che ha abbandonato i sindacati durante le fasi del referendum della Fiat e tutto quanto, e si attaccano a una promessa non mantenuta di un povero sindaco di Parma riguardo all'inceneritore. Ma sono vere entrambe le cose, possono essere vere entrambe le cose. C'è una realtà di fatto che fa parte di un giudizio che lei può dare sulla politica fatta dal Partito Democratico, ma è altrettanto vero che a Parma è successo questo, quindi non mi sembra assolutamente fuori luogo ricordarlo, giudicando dai pochi fatti concreti che ci sono stati nella politica dei grillini. Ma sei ancora in linea, Mario da Torino, prego. Sì, assolutamente sì. No, mi sembra focalizzarsi tanto sulla pagliuzza ignorando le travi. Ecco, questo. Grazie mille. Di travi ne stiamo parlando, perché stiamo proprio parlando della trave di un blocco della politica che non riesce ad esprimere un governo che sta trattando per il Presidente della Repubblica. Sono per 40 giorni fermi. Questo è certamente un blocco della politica, ma la politica deve fare i conti con le cose reali, e le cose reali sono quanto ha fatto la politica in passato, e qui il giudizio può essere diverso da parte delle singole persone. Ma io vorrei lasciare una parola anche a Mucchetti, perché l'osservazione è stata a lui diretta. Senatore Mucchetti. Ma io ho risposto alla domanda che veniva fatta da un radioascoltatore, e le osservazioni che ha fatto Mario da Torino mi colgono in larga parte d'accordo. Io comincio adesso, sono neo senatore, e vorrei ricordare a Mario che carta canta sul Corriere della Sera su molti degli argomenti che lui ha sostenuto, ho incalzato dalla Fiat alla Previdenza, i fondi integrativi che non funzionano, eccetera eccetera, e quindi intendo portare questo contributo anche in Parlamento, ovunque sia possibile, e penso di farlo con tutti quelli che condividono questo tipo di preoccupazione. Quindi quella era una risposta particolare, però caro Gianfranco, vorrei chiarire un paio di passaggi velocemente, se riesci, Marco. Consentimi, sono state dette tante cose, alcune delle quali inesatte, al professor Bedeschi. Vorrei ricordare che durante il governo Prodi ci fu una bozza violante che venne liquidata dal centrodestra, che cambiava esattamente la legge elettorale e quant'altro, quindi non è che il centrodestra non ha provato, la maggioranza di Prodi era estremamente debole. Infatti. No, però il tentativo è stato fatto e bisogna ricordarlo, così come anche la bicamerale di D'Alema negli anni 90 cercò di modificare la Costituzione e venne fatta saltare esattamente da Berlusconi. Il professor Bedeschi nella sua narrazione omette di ricordare la provenienza del Porcellum. La provenienza del Porcellum si chiama l'onorevole Calderoli, che così lo battezzò, riconoscendo la qualità del prodotto che aveva fatto. Ma questo l'abbiamo detto, che il Porcellum viene da una precisa parte. Io ho la memoria buona, e questo è perché i nostri radioascoltatori abbiano una corretta percezione, così come oggi credo che, se vogliamo parlare anche un po' di contenuti, non farmi soltanto dire queste sciocchezzuole qui, ma parliamo anche di cosa serve oggi all'Italia e cosa serve oggi all'Europa. Proprio oggi George Soros sul Corriere... Certo, l'abbiamo citato prima, siamo in conclusione purtroppo, ci sono tante cose concrete, ne abbiamo parlato durante il programma anche precedente, ne abbiamo parlato appunto, io vorrei lasciare proprio una battuta finale ai nostri altri due ospiti, il professor Cuocolo. Ti facciamo una previsione, si potrà cambiare questa legge elettorale? Ma ripeto, questione di un'intesa politica al momento mi sembra molto molto difficile da trovare, però speriamo, perché sennò non potremmo che rivedere un film già visto. Professor Bedeschi, inizierà la Terza Repubblica? Guardi direttore, mi permetta di, siccome sono stato chiamato in causa, di rispondere al senatore amico Mucchetti, che naturalmente ho ben presente che il Porcellum è stata un'invenzione della destra. Però non riesco a capire perché mai, durante il governo Prodi, che certamente, come dice il senatore Mucchetti, aveva... dobbiamo chiudere debole. Purtroppo, il governo Prodi aveva la maggioranza e quindi avrebbe potuto approvare, ma aveva una maggioranza, come dicevo, molto molto fragile. Grazie mille, grazie a Carmelo Lauricella in regia, quanti ci hanno aiutato in redazione. 24 mattino.